Parlerò adesso del libro di Scott Peck, Voglia di Bene. L'avevo letto anni fa, nella versione americana, The Roadless Child, e mi era parso un libro magnifico. Poi recentemente l'ho ripreso in mano e devo dire che non mi è bastata una lettura, anzi, penso di averlo fatto, alcune parti le ho rilette 7-8 volte, per poterle comprendere davvero. E questo rinvia al tema di che cos'è lettura. Lettura può essere un'azione consumistica, consumo questo fatto culturale, dopodiché me ne sono liberato, oppure può essere qualcosa che ci trasforma. Allora, perché questo libro, che indubbiamente dalle parti profondissime, possa attuare questo risultato? Bisogna ritornarci sopra, ma tante volte, fino a che alcune frasi che sono centrali non entrano dentro di noi, non fanno parte ormai del nostro vocabolario automatico. Allora, secondo Scott Peck, ci sono quattro principi che favoriscono la crescita personale e spirituale e sono necessari affinché essa diventi reale. Il primo è il rinvio della gratificazione, il secondo l'assunzione di responsabilità, il terzo la dedizione alla verità. E il quarto, il bilanciamento via di mezzo. Sono principi facili da capire, adesso vedremo. Non c'è bisogno di arrampicarsi sugli specchi, non ci vuole chissà quale abilità intellettuale. Quello che ci vuole è la voglia di farlo, cioè una volta che si praticano poi producono il risultato. Peck definisce questi quattro principi come disciplina, cioè capacità di darsi regole sane e di rispettarle. L'opposto è l'indisciplina, cioè di agire caoticamente nella vita. E dal caos raramente poi nasce l'ordine. Qualche volta sì, ma richiede parecchie morti prima, come la vita, l'origine della vita ci insegna. Disciplina, discepolo, discernere hanno la stessa radice. Il discepolo apprende dal maestro a far che? A discernere, a distinguere. Che cosa? A distinguere le cose importanti, ciò che fa bene e ciò che fa male, ciò che è utile e ciò che è inutile. Distinguere, discernere senza giudicare. Perché il giudizio comporta l'immediata creazione dell'ombra, cioè mi identifico con la parte buona e lascio andare la parte negativa E nell'ombra. l'attaccamento, E quindi. porta l'attaccamento alla parte buona, il fatto di voler combattere su quella parte buona, insomma, tutto il fanatismo che vediamo sotto gli occhi di tutti, il fanatismo religioso è questo: io sono cristiano, sono musulmano, mi ci attacco e non vedo i miei lati oscuri. E questi naturalmente li proietto sugli altri, contro altre religioni o contro coloro che religiosi non sono, e così via. Allora, la pratica del discernere costituisce una disciplina che va coltivata nel tempo per produrre i suoi frutti. Non è che ho capito, bisogna discernere. No, è come ho capito, bisogna intonare. Sì, dopo ci vogliono degli anni per imparare a intonare. I frutti sono la crescita della consapevolezza o della coscienza di sé del mondo. E con essi la fine della sofferenza nevrotica o innecessaria. Quindi la disciplina è qualcosa di veramente fantastico, cioè qualcosa che chi desidera amore nella vita dovrebbe tuffarci sia pesce, è quello che dovrebbe fare. Purtroppo la nostra è una cultura così confusa su questo tema come su altri, per cui la disciplina ormai è stata considerata l'oppressione di un prepotente su uno fragile, debole, buono, quindi di un cattivo su uno buono. Adesso approfondiamo il tema. Che cos'è la nevrosi? Secondo l'elegante definizione di Jung, la nevrosi è il sostituto della sofferenza necessaria. Il discepolo che apprende l'arte della disciplina impara a discernere, sviluppa consapevolezza, diventa leader di sé e alla fine, se continua, diventa maestro. Cioè, impara a sciogliere la nevrosi. E la nevrosi non è altro che l'illusione, la incapacità di discernere. Il nevrotico è un uomo confuso. Non sa distinguere una cosa dall'altra. Non sa distinguere ciò che vuole da ciò che non vuole, ciò che è bene per lui e ciò che è male, e quindi non sa distinguere la persona reale dall'immagine transferale che ci proietta sopra, quindi vive nella confusione, non c'è differenziazione. Il nevrotico, quando discerne, di solito inizia subito a giudicare. E giudicando alimenta la sua ombra, quindi quel tipo di distinzione non è il discernimento. Il discernimento è quello privo di giudizio, privo Privo di giudizio vuol dire che si accompagna a serenità, mentre il giudizio si accompagna regolarmente a colpa, rabbia, irritazione, violenze. Ho detto prima che il discepolo apprende l'arte della disciplina, cioè impara a discernere. E adesso approfondiamo ancora questo termine. Che cosa quindi è disciplina? Dunque, la disciplina è amore in azione. Perché amore in azione? Perché per realizzare l'amore abbiamo bisogno di imparare a discernere. E il discernimento avviene attraverso la disciplina. Attraverso la disciplina noi impariamo a discernere ciò che è il nostro bene da ciò che il nostro bene non è. Se non impariamo a discernere attraverso la disciplina, noi perseguiremo il nostro male, credendo di perseguire il nostro bene. Ci innamoriamo di una persona quando questo innamore, anziché portarci gioia, ci porta all'inferno sulla terra. Allora, se facciamo questo, vuol dire che non stiamo distinguendo, non stiamo discernendo. Siamo preda della distorsione e quindi della nefrosi. E naturalmente la persona che per gran parte della vita si è dedicata a praticare illusioni e gratificarsi attraverso le illusioni, appena gli mette in crisi le illusioni, non è che sta bene, soffre. Sì. Quindi c'è un passaggio necessario per la sofferenza. Se la persona non riesce a fare questo passaggio perché non ci crede, non ritiene utile, non esce dalla nevrosi. La nevrosi te ne liberi soltanto quando hai il coraggio di affrontare la verità. E la verità vuol dire andare dietro l'illusione e sapere che se mi attacca alle illusioni non potrò che soffrire. E tu mi dici, sì, ma io se mi stacco dalle illusioni soffro subito. Sì, certo, soffri qualche minuto, ma qualche ora, qualche giorno, poi finisce tutto. È come se tu hai mal di denti, tu puoi anche dire, ma se senti, vai, se ho mal di denti, ma far passare, via, pigliati un farmaco. Ti fai un farmaco e un analgesico per un po' non lo senti. Sì, ma il dente mica viene curato. Ecco, e adesso ti fa il male di nuovo, prendo un altro analgesico, poi non funziona più, e passa la morfina, porca miseria, con la morfina non sento più niente, e poi dopo la morfina c'è la morte, ecco, non è che rimane molto altro. Quindi se uno va dal dentista e se lo fa togliere, dice sì, ma il dentista mi fa male per togliere esatto, mi toglie il dente o me lo cura, certo che mi fa male, ma è ovvio. Però poi dopo hai risolto. Il problema nasce dal fatto che se ho mal di denti probabilmente ho mangiato lo zucchero, ho fatto delle casini. Quindi ho compiuto delle azioni senza distinguere tra il bene, esatto, e quello che mi fa bene e quello che fa male. Questo si accumula nel tempo, è come un'azienda che investe male nei suoi progetti, è chiaro che a un certo punto va andare vicino a fallimento. A volte nella vita noi ci andiamo in terapia quando abbiamo già l'ingiunzione fallimentare del tribunale in casa, e lì allora diventa ardua, ecco. Perché? Perché quando arriviamo lì poi la risalita è più dura. Se si fa prima, sì, è molto meglio, perché ci sono ancora dei liquidi, c'è ancora un fido che, sì, le banche ti danno, quindi puoi acquisire. Se sei arrivata proprio in fondo, d'altra parte quello è l'unico momento in cui alcune persone decidono. Sì. Prima non decidono proprio. Sì. Finché c'è tempo, rinviano. Sì. Rinviano sempre per questo principio che abbiamo detto appunto.